Ciao Radio Quartiere! Sembra che vi manchi qualche audio da mandare in onda. Ecco che vi mando l'ultimo pezzo di Figlia degli Elementi. Il finale è davvero brutto, ma ovviamente molto romantico. Comunque un piccolo riassunto è: Rain, la protagonista, passa un'intera settimana di sesso sfrenato con Aldo, golosa. Alla fine della settimana litigano perché Aldo pensa che Rain ancora sposerà il suo fidanzato, un tipo che si chiama Garth, ma lei aveva già deciso che non andrà nemmeno all'angolo con Garth. Quello che vi leggerò è la lotta, cioè non la lotta, in realtà litigano, ecco, litigano dopo, cioè, l'arrivo della fine di questa settimana, e litigano perché Aldo è incazzato di che lei ancora si sposerà con questo altro. Quindi, spoiler, dopo il litigio si separano per un po', si ritrovano e si sposano. Cian, fine. Se tutto fosse così facile, no? Vabbè, non entrare in disperazione, ho altri due libri, preparatevi. Allora, Figlia degli Elementi, pagina 167. Aldo saltò fuori dal letto come un guerriero infuriato, dimenticando di essere senza pantaloni. Ne ho tutti i diritti, urlò. Io ti amo e tu sei mia, che tu lo ammetta o no. Non ti starò a guardare mentre getti via la tua vita. Come puoi pensare di sposarlo dopo quello che c'è stato tra di noi? Disse indicando il letto sottosopra. Maledizione, non l'accetterò mai. Non sono tua, Aldo, e nemmeno sono sua. Vabbè, tolgo questa voce. Non sono una barca o il premio della lotteria, strillò. Rain, irritata, sembrava che i suoi genitori, Garth e persino Aldo, pretendessero di avere il potere di decidere della sua vita. No, d'ora in poi non sarebbe più stato così. Era giunto il momento di decidere da sola il suo futuro. Se non sbaglio, si tratta della mia vita, continuò. Penserò io a fare ciò che mi conviene. Fine.